Frenetic and Orem. Dai, per scordarti dammi un pretesto. Dai, quando collasso la mattina presto. E se sto sveglio mi sento in arresto. Steso per terra, che mi calpesto. Che per prepararsi a soffrire servono cose speciali. Cose speciali. Buste di droghe, mica i regali. Gli amici cari, i medicinali. Nuoto ricoperto di sangue in mezzo agli squali. Carne fresca per il foglio, si suicida l'orgoglio. C'ho solo schede nel portafoglio. Una foto come i presidenti morti. Non ho farfalle nello stomaco, c'ho i corpi. Il cappio è stretto bene, bene. Spero che il soffitto tiene. Scherzo, è un suicidio lirico. Lirico. Il corpo è vivo ma è morto lo spirito. Mamma mi chiede se va tutto ok. Le dico no da quando non sto più con lei. Fatti forza anche stasera. Mettiti il vestito che usciamo. Andiamo a ballare la ballata del dubbio. Tenersi niente o perdere tutto. Ho perso tutto. Ho perso tutto. Ho perso tutto. Quante gocce? 10? 10? 20? Dolci i sentimenti. Dolce. Ti strappano il cuore, ci giocano a rugby e poi lo rimettono a posto. Dai, rimettilo là. Vuoi sapere a quale costo? Quello che paghi sono i minuti che pungono come aghi. Le ore ti strozzano come spaghi. I giorni sono draghi. Le settimane un ergastolo. I mesi maghi. Maghi trasformano in lacrime i laghi. Gli uccelli all'alba si fanno la corte. Vaffanculo. Me lo strillano in faccia forte. Vaffanculo. Stupido, non c'è più lei con te. Vaffanculo. Adesso stai solo la notte. Sacco cartine, stagnole, accendini, alcolici. Filtri 10 euro fra senza guardare più fuori. Che tempo fa? Adesso ho le lenzuola di cellofan. Prendimi dai. Stacco la spina alla paranoia dell'esistenza. La stronza c'ha la batteria d'emergenza. Ciao. Mamma mi chiede se va tutto ok. Le dico no da quando non sto più con lei. Fatti forza anche stasera. Mettiti il vestito che usciamo. Andiamo a ballare la ballata del dubbio. Tenersi niente o perdere tutto. Ho perso tutto. Ho perso tutto. Ho perso tutto.